Siamo con Maurizio Busia, uno dei curatori dei suoni, i passi, fantasie musicali e narrazioni sulla Via degli Dei, il Festival di Slow Walk e musica sull'Appennino Tosco-Emiliano, in un percorso da Bologna a Firenze dal 25 giugno al 1 luglio. Maurizio, ben trovato. Bentrovati a voi. Raccontaci tutto. Senti, in realtà questa è una nuova avventura che abbiamo costruito insieme a Carlo Maver e Claudio Carboni, che sono gli altri due direttori artistici, più afferenti alla divisione Appennino Emiliano e Bolognese, mentre io con Fabrica Europa mi sto occupando soprattutto della parte dell'Appennino Toscano. Abbiamo immaginato di unire le due aree geografiche attraverso un percorso di camminata con tappe musicali che appunto inizierà lunedì e fino al 1 luglio attraverserà tutto l'Appennino sulla Via degli Dei. Com'era partito tutto il progetto? Ma senti, in realtà nasce da esperienze diverse, ma che hanno nell'essenza già questi ingredienti che sono presenti in questa nuova iniziativa, perché Carlo Maver e Claudio Carboni da anni lavorano a iniziative musicali sull'Appennino Emiliano, mentre Fabrizio Europa, soprattutto col Festival Eau Désert a Firenze, lavora sul concetto di nomadismo in musica, quindi dal 2010 abbiamo portato avanti il progetto gemellato con Timbuktu, che fa dell'itineranza il suo concetto fondamentale, e tant'è che il 1 luglio il trekking finisce proprio alla manifattura tabacchi di Firenze, dove si svolge il Festival del Deserto di quest'anno fino al 3 luglio. Sì. Come saranno organizzate le varie tappe? Senti, ci saranno delle tappe più consolidate come concerti, e quindi luoghi più strutturati da questo punto di vista, con tanto di allestimento tecnico e scenico, ma soprattutto degli inserimenti musicali nella camminata, quindi delle sorprese che possono avere soprattutto i camminatori in luoghi in cui avviene il cammino senza che questo sia troppo, come dire, annunciato. Quindi diciamo un doppio percorso di esperienze: da una parte le tappe a cui possono accedere tutti, dall'altra invece piccole sorprese per chi decide di fare questi 7 giorni di cammino musicale. Allora, tra Bologna e Firenze leggo di 7 tappe e ognuna più o meno che chilometraggio? Ma senti, sono molto variabili, però si è pensato a dei cammini che possono fare anche delle famiglie, quindi diciamo una quindicina, al massimo 20 km al giorno, sapendo appunto che ci sono dei tratti un pochino più impegnativi, altri più rilassanti, in cui sarà più facile appunto godere della musica e delle bellezze ambientali ed enogastronomiche. Per il pernottamento come funziona? Allora, chi vuole può acquistare dei veri e propri pacchetti turistici attraverso un'agenzia che si chiama Appennino Slow, mentre le iniziative culturali sono tutte gratuite, quindi c'è comunque la possibilità di fruire del percorso in entrambe le maniere. Per le informazioni principali legate ai pacchetti turistici c'è il sito www.appenninoslow.it, in cui ci sono tutte le indicazioni precise, le guide, i passi e la modalità di pernottamento. Rispetto all'aspetto musicale, cosa ci dici? Allora, vi dico che ci sono delle bellissime sorprese, a partire da una delle prime tappe con uno dei musicisti più interessanti della musica africana, che però risiede in Italia da un po' di tempo, che si chiama Khalifa Koné, che ritroveremo poi il 1 luglio nel gruppo di Baba Sissoko, proprio all'interno del Festival Eau Désert. E tra questi due punti di partenza e di arrivo troviamo musicisti come Tony Cattano, come Dimitri Gretti e Spinoza, o anche internazionali come Michel Godard e Natasha Mirkovic, che in qualche modo inseriranno la propria proposta musicale in dei contesti particolarmente affascinanti. Non ultimo il concerto delicatissimo di Arciliuto e Oud del duo Quintana, con Caterina Gannundi all'arpa barocca e alla voce, e Ilaria Fantin appunto all'Arciliuto. E riguardo le narrazioni? Riguardo le narrazioni, professionali sono dei compagni di viaggio che ci portiamo con noi, come per esempio Wu Ming 2, che è uno di quegli scrittori anonimi, anche se sappiamo che sta dalle parti di Bologna, che ha fatto proprio una pubblicazione sulla Via degli Dei, sottolineando nel suo percorso di scrittura questo percorso lento in un contesto che parallelamente raggiungiamo in una mezz'ora in treno. Invece, facendolo così lentamente, riscopriamo non solo la natura, ma un po' noi stessi, un altro modo di vivere, la natura e la quotidianità. Benissimo, allora ricordiamo dei suoni passi, fantasie musicali e narrazioni sulla Via degli Dei, il Festival di Slow Walk e musica sull'Appennino tosco-emiliano da Bologna a Firenze dal 25 giugno al 1 luglio. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei direttori, Maurizio Busia. Maurizio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, crepi il lupo e a prestissimo.